iniziano a essere allergici alla polvere, ai chiaroscuri, alle ombre che tolgono aria e luce. Non c'è dietro uno scontro di potere tra porporati, ma il coraggio encomiabile dei semplici e degli umili. E sta di fatto che anche il Fatto Quotidiano oggi pubblica una lettera sempre di questo genere, una lettera che si riferisce al caso Boffo, inedita. Marco Lillo, a pagina 6, la lettera che vi pubblichiamo è una lettera che Dino Boffo, all'epoca direttore d'Avvenire sotto attacco, scrisse alla conferenza episcopale. Molto presumibilmente il destinatario non c'è, ma è destinata a Bagnasco, al cardinale Bagnasco, visto che inizia così la lettera. Eminenza, vorrei tanto che lei mi avesse davanti e potesse avvertire tutta la mia desolazione. E il succo di questa lettera è questo. Cosa faccio? Faccio un'intervista per dire la mia e dare ragguagli sulla mia situazione? Ancora ieri Ezio Mauro, cioè il direttore di Repubblica, si è offerto di venire a casa mia e farmela l'intervista, ma anche il Fatto, il Foglio, la Stampa, il Resto del Carlino. Io non avrei problemi a poter parlare, ma non sono ancora convinto che sia la strada migliore, perché andrei di fatto a rinfocolare le polemiche, finirei per arrecare danno a qualcuno. Potrei certo andare leggero sulla vicenda, sulla parte svolta da Bertone e Vian, cioè il cardinale Bertone e il direttore dell'Osservatore. D'altra parte, se parlo, posso negare completamente quello che oggi risulta essere la realtà dei fatti? Insomma, la lettera, secondo il Fatto Quotidiano, è questa. È una sorta di velata minaccia di Boffo a Bagnasco, se parlo io. E infatti, scrive il Fatto, poco dopo arriva una sua nomina alla direzione della TV Sat 2000. Insomma, veleni, corvi, intrighi in Vaticano. Ma che sta succedendo? Come mai escono queste lettere? Libero va anche a intervistare Vittorio Feltri, direttore allora del giornale che pubblicò tutta la vicenda Boffo. Ovviamente un'intervista di Mattias Mainiero non scuce mai il nome Vittorio Feltri di chi gli passò quel documento. L'accusa di Boffo fu il direttore dell'Osservatore Romano, ma Feltri replica così. Mi passò in realtà tutto una persona, un'alta personalità della gerarchia ecclesiastica. Non arrivò a me, ma arrivò sul tavolo di Alessandro Sallusti, che mi notificò tutto. La provenienza era autorevole, non mi è mai venuto il sospetto che i documenti potessero contenere falsità. Ciò nonostante, pregai la redazione di fare le necessarie verifiche. Ma insomma, non dice certo, mi è arrivato tutto da nome e cognome. Non svela la fonte. Devo chiudere? Sì, devo quasi chiudere. Vi segnalo solo questo dello sport. Lo scudetto è lì della Juve, non si tocca, complimenti, meritato, giusto. Tutte le pagine sportive però raccontano di questo. C'è un pentito, Carobbio, giocatore del Siena, che dice Antonio Conte, allora allenatore del Siena, in una partita ci disse tranquilli perché siamo d'accordo per una combin sul pareggio. Conte d'accordo su due combin, per la verità. Due partite. Il pentito Carobbio accusa, è l'unico per la verità, gli altri giocatori del Siena smentiscono, ma lui, Carobbio, dice il tecnico ci disse state tranquilli. Anche sulla Stampa Conte ci disse tranquilli, con il Novara c'è l'accordo, finì effettivamente 2-2. Secondo alcuni giornali rischia addirittura 5 anni di squalifica, se tutto verrà dimostrato, di squalifica. Antonio Conte, ma lo scudetto numero 28 è lì.